rozkosz straci. Zorba, chytry nokieri, klej, innych taki wrochi. Hefty, a ja się z tym psychi, nich takie wrochi. Zorowa, kombo i kardyja, Zorowa, wyraz ta klawija, chtipa, amoniak jest świrja, kleo, ja parigorja, ach ja parigorja. Fatasta chili, hati cante panni fili, di coslati toccandili, di craver patasta chili, o se dasme che i meioni, poi narcisi destarioni, sto stavro che mastavroni, o se dasme che i meioni, antici che calocheri, agrio mavro peristeri, di sapari, di saperi, antici che calocheri, tire miri setti mari, io mi seto gno fengari, lavo meno palicari. Dire mi rispetti mari che vrochi. Sigrid is in un carteri.